Vuoi conoscere meglio i servizi sociali del Comune di Bologna? Se non ti sei già rivolta allo sportello sociale del tuo quartiere e vuoi solo un'informazione generale sui servizi sociali del Comune di Bologna, puoi rivolgerti al punto unico informativo, telefonico e email. Il punto unico ti dà un'informazione su tutti i servizi sociali di Bologna. Trovi i contatti qui sotto. Puoi anche visitare il sito web dei servizi sociali del Comune di Bologna. Un motore di ricerca ti aiuta a trovare tante informazioni sui servizi sociali. Il link è qui sotto. Se vuoi, puoi scaricare sul tuo smartphone un'app gratuita del Comune di Bologna che ti dà tante informazioni sui servizi sociali. L'app si chiama Bologna Welfare. Puoi scaricare l'app dal link qui sotto. Per richiedere alcuni servizi sociali devi avere un ISEE valido.